scrivo col sangue, così che tu mi possa ricordare, come Nietzsche dice, fangoso, cane miserabile, io come nello Stige Dante, scrivo così parole, nel caos, che danzando mi parlano intorno, oso una stella ballando, l'ultimo ballo, sei The Last Dance. E dentro ai nudi molli, bosseggiando, cercando baci sotto lampioni, l'orologio si fa liquido. Dentro ai nudi molli, bosseggiando, cercando baci sotto i lampioni. Ora che lontani, troppo lontani, vediamo i grandi elefanti ascoltare il nostro urlo di rabbia, al bisogno di noi per poi volare. Un'ora infame come lo sono stati loro, noi così domani. Noi ora infame come lo sono stati loro, noi così domani. L'orologio si fa liquido dentro ai incubi molli, bosseggiando, cercando baci sotto i lampioni, sotto i lampioni. Pretty woman, pretty woman, scrivo col sangue, così che tu mi possa ricordare, come Nietzsche dice, fangoso cane miserabile, io come nello Stige Dante, scrivo così parole nel caos, che danzando mi parlano attorno, oso una stella ballando, l'ultimo ballo, sei The Last Dance, ripensando a te, pulendo con lacrime del mio cuore che brucia, come un ghost, mentre sembra che tu sia qui con me, sputando il sangue come nel miglio verde. Non permetterò di dire che tu sei troppo per me, la ricerca della felicità, sputando il sangue come nel miglio verde. Non permetterò di dire che tu sei troppo per me, la ricerca della felicità.